Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete all'ascolto della puntata numero 396 di Restiamo Animali, puntata che inaugura il mese di settembre 2017. Per chi non ci conoscesse già, questa è una trasmissione settimanale che ha l'ambizione di ispirare chi ascolta a vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo l'unico format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni, i punti di vista della galassia animalista, antispecista e vegan. Voci, fatti e opinioni che vi vengono raccontati da giornalisti e media attivisti che si muovono da anni all'interno di questi mondi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Partiamo con una bella notizia. Forse avrete visto le impressionanti immagini delle 300 formichine che, come lillipuziani, cercano con l'ingegno e un incessante lavoro di liberare un gigantesco cucciolo di megattera lungo almeno 10 metri, spiaggiato vicino a Rio de Janeiro, in Brasile. Il cetaceo era rimasto intrappolato per 24 ore nella spiaggia, ma grazie all'intervento della popolazione locale è stato possibile salvarlo. Un canale scavato nella spiaggia ha infatti permesso al piccolo gigante di raggiungere il bagnasciuga per poi allontanarsi. La megattera, dopo un momento di spaesamento, ha iniziato a nuotare verso le acque più profonde e fra le grida di giubilo e le lacrime della folla ha mosso la coda come a salutare i suoi aiutanti. Una storia a lieto fine che ci fa piacere riportarvi. Conciliare gli interessi dei cacciatori con la conservazione della fauna selvatica sappiamo che è impossibile. Le teorie scientifiche che affermano la sostenibilità della caccia infatti si basano sull'esistenza di una presunta e teorica eccedenza di fauna. Cioè tra la primavera e l'estate con le nuove nascite ci sarebbero degli individui in sovrannumero che sarebbe opportuno eliminare in autunno con l'aiuto dei fucili per mantenere costante il numero dei selvatici sul territorio. Questa è la teoria venatoria, ma ovviamente tutto questo è solo una astratta teoria che pecca anche di superbia, come molte altre teorie create ad arte per soddisfare gli appetiti ludici, gastronomici e di profitto umano. Intanto il sovrannumero di fauna selvatica in natura si riequilibra da solo con le difficoltà climatiche invernali, con le fatiche e i rischi delle migrazioni. Inoltre il cacciatore quando spara non può sapere se quell'individuo lì è maschio, femmina, sano o malato, destinato a riprodursi o incapace di farlo, oppure se sarebbe morto da lì a poco. In questi giorni le associazioni animaliste EMPA, LAC, LAV e LIPU stanno chiedendo a gran voce un provvedimento urgente che blocchi la stagione venatoria 2017-2018 e che permetta alla fauna e al territorio di ristorarsi dopo l'interminabile fase di siccità e di incendi che sta continuando a colpire l'intero territorio nazionale. Noi siamo d'accordo con queste associazioni a consentire l'apertura della caccia e dal nostro punto di vista un vero e proprio ecocidio. Anche l'ISPRA ha invitato tutte le regioni italiane a introdurre delle limitazioni all'attività venatoria. Vediamo come andrà a finire. Sappiamo bene che la caccia e i suoi tempi e i suoi modi non sono però una questione tecnica o scientifica. Si tratta di una questione politica e questo paese vive un clima di costante propaganda elettorale che non aiuta molto i nostri amici selvatici, che purtroppo rappresentano un interessante bottino di scambio. Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa distesa. Tu mi dicevi che la verità e la bellezza non fanno rumore, basta solo lasciarle salire, basta solo farle entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera. Il giorno sprofonda nei solchi bruciati di questa distesa. Tu lo sapevi che nessuna gioia nasce senza un dolore. Basta solo farlo guarire, basta solo lasciarlo entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. È tempo di imparare a cadere, è tempo di rinunciare al veleno, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera. Ancora sul tema dei selvatici, il 24 agosto 2017 è stata pubblicata la foto di un cucciolo di cinghiale ucciso e appeso a un cartello stradale sopra a San Carlo, in provincia di Massa Carrara. D'altra parte siamo in Toscana, dove l'assessore regionale Remaschi ha scritto e approvato una legge soprannominata Ammazza Cinghiali, che aveva come obiettivo, pensate, di uccidere 250.000 individui tra cinghiali e cervi. L'immagine del piccolo cinghiale che penzola è veramente scioccante. La sua carcassa appesa a un cartello stradale ha fatto sì che un automobilista, un certo Ettore Giovannelli, abbia visto lo scempio e lo abbia fotografato per condividerlo in rete. Surreali le affermazioni dell'automobilista sensibile. Anche io mangio tagliatelle al cinghiale, ma rispetto per la dignità degli animali cerco di portarlo. Provo tristezza per l'aridità dell'anima di certe persone. E certamente esibire la carcassa di un animale non è una cosa molto edificante, ma forse andrebbe spiegato che per un cinghiale morire per finire in un ragù oppure per venire appeso non cambia molto, a meno che non si voglia un po' ipocritamente sostenere che la violenza e la morte inflitte diventino un problema solo nel momento in cui si rendono visibili. Altrimenti, come dice il proverbio, occhio non vede, cuore non duole. The sun shines high above, the sounds of love. laughter. The birds swoop down upon the crosses of old gray churches. We say that we're in love, we're secretly wishing for rain. Agosto la cronaca della nuova Ferrara dava la notizia di un super allevamento, un allevamento di enormi dimensioni che è attualmente allo studio in Emilia Romagna, per la precisione al confine tra Scortichino e Finale Emilia. Se ne sta valutando l'impatto ambientale, senza ovviamente alcuna valutazione aggiuntiva di tipo etologico e men che meno di tipo etico, ci mancherebbe altro. Si tratterebbe di un allevamento zootecnico intensivo con 85.000 polli da ingrasso, 60.000 galline ovaiole, 3.000 maiali, anch'essi sottoposti all'ingrasso, e 900 scrofe, le quali saranno inseminate incessantemente fino all'esaurimento e dunque alla macellazione per avere una costante produzione di maialini. Sul territorio di Bondeno, tra l'altro, insistono già altri mega allevamenti. A coloro ai quali il supplizio degli animali non bastasse, interesserà forse sapere che Bondeno è stato uno dei focolai di influenza aviaria nel 2013 e che sempre a Bondeno nel 2015 un allevamento di suini era stato classificato come industria insalubre di primo tipo, dopo un'inchiesta sollecitata dai residenti le cui case si trovano nelle vicinanze dell'impianto, i quali avevano protestato per odori pungenti e in talune ore della giornata nauseabondi, per non dire poi della presenza di insetti in quantità anomala. Relazione tra l'Emilia e i suoi allevamenti non va sottovalutata. Non è solo qualcosa di folcloristico, di tradizionale, ha anche a che fare con la trasformazione del paese, con il progressivo dissolvimento della relazione tra cittadini, lavoro, territorio e ambiente di vita. Il maiale viene umanizzato, lo si trova sorridente nelle plastiche che avvolgono le sue povere membra, nei frigoriferi dei supermercati, viene sterminato a milioni ogni giorno e viene evocato per disprezzare e insultare chi non lo mangia, salvo poi avere bisogno di queste persone proprio per fare il lavoro sporco con paghe da fame nella catena dello smontaggio dei corpi animali. Tutto questo antefatto ci serve per introdurre una piccola storia ignobile che si è svolta nell'estate del 2002 a Castelnuovo Rangone, il luogo d'Italia in cui l'animale totemico per eccellenza, il maiale, quello di cui non si butta via niente, per cui si massimizza il profitto, è al centro di una storia di cronaca nera. Sentiamola dalla voce di Wolf Bukowski, che ha recentemente pubblicato il libro La Santa Crociata del Porco, edizioni Alegre. A Castelnuovo Rangone si tiene tutti gli anni, o almeno si teneva fino a pochi anni fa, la festa di Libera. A un certo punto, diciamo l'inizio degli anni 10, nel programma della Festa di Libera compare un documentario che è passato un'unica volta in Rai su un episodio recente di Castelnuovo Rangone, cioè l'omicidio di un marocchino che credeva di essere più criminale dei suoi padroni. Cos'era successo? I suoi padroni facevano sbollinare prosciutti, che significa che tu prendi i prosciutti, li importi, gratti via il timbro e ci metti il timbro tuo, quindi diventa prosciutto made in Emilia, assumendo un livello di prezzo molto maggiore. Lui questa roba l'aveva filmata e aveva pensato di poter quindi di fare il salto e di poter ricattare i propri padroni, solo che non ha fatto i conti che questi erano molto più avanti e l'hanno fatto ammazzare. Questo episodio c'è stato un processo, c'è stato il processo per l'omicidio, sono stati beccati sia gli esecutori che i mandanti, e non c'è mai stato un processo per la sbollinatura, capisco molto meno importante l'omicidio, però era, come dire, si sarebbe aperto automaticamente, ma non c'è mai stato. E c'è stato un documentario su questo fatto. Libera lo propone al suo festival sulla legalità, eccetera, eccetera. Il sindaco Castelnuovo Arangone si irrita moltissimo, dice che questo documentario ridicolizza il paese, ridicolizza lui perché di una lunga intervista aveva tenuto solo due o tre parole, e impone essenzialmente a Libera, che accetta, di non proiettare il documentario. Quindi questo, insomma, dà un po' l'idea di quale sia il clima e di quale sia il... anche un po' il clima di paranoia, diciamo, tipicamente emiliano, e di ipercontrollo su tutto quello che accade, che si esprime lì. Agosto scorso si è svolta a Sacile, un comune della provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, la 774esima Sagra dei Osei. Quasi ogni anno da quando esistiamo ne abbiamo parlato, schierandoci dalla parte di chi si oppone a questa barbarie. Migliaia di uccelli, animali alati, la cui casa dovrebbe essere il cielo, in quell'occasione e per quella occasione vengono costretti in gabbie ed esposti allo sguardo di migliaia di curiosi, adulti e bambini, nel caos di una fiera. E basterebbe questo già a rendere insopportabile la Sagra dei Osei. Ma la cosa più scandalosa è l'esposizione di esemplari d'accanto. Una situazione in cui si ascoltano le voci degli uccelli, equivocando il loro pianto disperato, trovandosi in gabbia, in esibizioni canore. Qualcosa, insomma, che noi fraintendiamo e pensiamo sia una musica godibile e commerciabile. A questo proposito vi proponiamo la recensione del libro Volare, a cura dell'Associazione Animalisti Friuli Venezia Giulia. La recensione del libro è a cura di Fabio e Lella, ovvero gli editori antispecisti Troglodita Tribe. Per saperne di più su questo libro e sul motivo per cui siamo contrari alla Sagra degli Osei, potete visitare il blog www.nosagraosei.org. I curatori dell'associazione Animalisti FVG spiegano le origini di questa fiera, che inizia intorno al 1200, ma raccontano anche la controstoria messa in atto con manifestazioni, presidi, boicottaggi, contromanifesti, per cercare di fermarla. Il libro contiene quindi le voci di attivisti, filosofi, poeti, giornalisti, antropologi, scrittrici, artisti, che hanno contribuito con i loro testi. Ecco alcuni brani. Frammento di Adriano Fragano. Ogni anno si svolge una sagra in cui migliaia di esseri senzienti vengono esposti, venduti, comprati, usati e maltrattati come se fossero oggetti, Ogni anno si svolge una sagra mediante la quale le giovani generazioni umane vengono educate alla sopraffazione, a credere nella legge del più forte e nel diritto di quest'ultimo a disporre delle esistenze altrui a proprio piacimento. Più che di orgoglio, quindi, sarebbe giusto parlare di vergogna, ma così per molti non è. Frammento di Fabio Lella, Troglodita Tribe. Guardate le mani di chi prende gli uccelli in gabbia per venderli. Concentratevi su quelle mani. Sono gesti pesanti e grossolani, di mani che si abbattono violente sulla sottile delicatezza di chi vive sollevato da terra, di chi guarda il mondo da un altro alto punto di vista. Quelle mani non si prendono solo la vita di tutti questi uccelli, quelle mani offendono, stritolano e deridono l'intera loro essenza. Li uccidono senza ucciderli, perché li annullano, li strappano dal cielo nella squallida illusione di poter ingabbiare una fettina di libertà. Eppure le nostre mani sono uno strumento meraviglioso, le nostre mani hanno dirompenti potenzialità. Si dice infatti che la buona o la cattiva sorte non sia il frutto di una coincidenza, ma che invece sia nelle nostre mani, perché dipende tutto da come le usiamo. Frammento di Marco Maurizi. E poi le ali, il dono del volo, la capacità di sentire il proprio corpo sciogliersi nell'aria, l'elemento del vuoto che ti sostiene, il possibile che si fa orizzonte, la libertà che si incarna in una parabola danzante. Ridicoli, imbarazzanti e spaventosi al confronto Icaro, Leonardo e i fratelli Wright. La nostra invidia per gli uccelli è senza pari dall'alba dei tempi. Ci guardano dall'alto, benché non dall'alto in basso. E questo a noi non va. Non sopportiamo che esista una prospettiva al mondo che non sia la nostra. Volare, a cura dell'Associazione Animalisti Friuli Venezia Giulia. Autoproduzione, pagine 224. Può essere richiesto scrivendo a animalistifvg@gmail.com. If I am your child, gentile, un frigorifero senza crudeltà. Salutiamo le vacanze estive con una ricetta settembrina, un secondo piatto agrodolce che ci farà scoprire la versatilità dell'uva bianca. La punta di frumento all'uva bianca. Gli ingredienti per 4 persone sono 50 g di farina, 50 g di farina di grano saraceno, 50 g di farina di ceci, un cucchiaio di barbe rosse frullate a purè, olio extravergine d'oliva, 2 cipolle dorate, 150 g di uva bianca, una tazzina di aceto di mele, un cucchiaio di zucchero di canna, sale e pepe e del prezzemolo tritato. Preparate una pastella con la farina di frumento, il grano saraceno, la farina di ceci, un pizzico di sale, pepe, un cucchiaio di olio e acqua. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto cremoso, non troppo liquido. Alla fine aggiungete il purè di barbe rosse e mescolate un'ultima volta. Mettete un filo d'olio in una padella antiaderente e realizzate una sorta di frittella con l'impasto. Fate cuocere da entrambi i lati e lasciate raffreddare. Quindi tagliate a strisce di circa 3 cm per 6. A parte, affettate le cipolle e fatele scottare con poca acqua. Quando questa sarà ben evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e fate rosolare per qualche minuto. Quindi unite i chicchi di uva bianca tagliati a metà e dopo qualche minuto unite lo zucchero di canna. Aggiustate di sale e pepe ed infine bagnate con l'aceto di mele. Fate ritirare a crema ed unite gli straccetti di punta di frumento. Fate saltare per un minuto e servite guarnendo con del prezzemolo tritato finemente. Le persone che hanno collaborato alla produzione e alla messa in onda di questa puntata: Lella e Fabio, ovvero i Troglodita Tribe, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Wolf Bukowski, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e la voce che vi ha accompagnato in questo viaggio, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.